giudizio universale. Mi addormento con la luce negli occhi, poi di notte mi risveglio con la schiena spezzata. Un oceano di riflessi mi abbaglia, poi mi stende sotto il cielo, sopra l'erba bagnata. Poi di giorno alle allucinazioni c'è un pastore tedesco con le scarpe di Prada, con un tizio grasso e mistico insieme, in compagnia di un barbone ed un profeta ignorante. Giudizio universale. Un pelato col vestito arancione mi diceva che ero triste ed aveva ragione. Poi tranquillo mi invitava a pensare, cercando l'infinito dentro un particolare. E una preghiera per la sera, e che mi salvi dalla normalità e dal giudizio universale. Forse non ho tempo, forse non ho più paura, allora manco di rispetto ai santi e alla cultura. E vivo e mi addormento col mio dubbio esistenziale, non mi resta che aspettare il giudizio universale. Forse non ho tempo, forse non ho più paura, allora manco di rispetto ai santi e alla cultura. Vivo e mi addormento col mio dubbio esistenziale, non mi resta che aspettare. Non mi bastonate, non portatemi rancore, anche io credo in qualcosa ma non gli so dare un nome. Vivo e mi addormento col mio dubbio esistenziale, non mi resta che aspettare il giudizio universale. È una preghiera per la sera, è una preghiera, sì. Una preghiera fa sempre bene. Grazie, grazie, grazie.